Ad alta voce, Maria Paiato legge Gli ultimi anni di Clelia Trotti, di Giorgio Bassani. Entrarono nel tinello a pian terreno. Bruno volse gli occhi in giro. Dunque era qui, si disse, che Clelia Trotti passava gran parte delle giornate, sfiatandosi a dare lezioni ai bambini e ai ragazzetti del vicinato. Era questa, dunque, la sua galera. La mobilia di legno scialbo, dozzinale ma non priva di qualche ridicola pretesa. Il panno di lana verde stinto, macchiato d'inchiostro che ricopriva il tavolo centrale. Il lampadario di vetro stile murano, incombente dal soffitto. Il diploma di ragioniere, con sopra vergato in fioriti caratteri gotici, il nome del padrone di casa, Evaristo Codecà, appeso a gloria fra miseri quadrucci di paesaggi alpestri e marini. La sagoma scura di una pendola gigante in un angolo, dal tic-tac secco e sonoro, minaccioso. Perfino il raggio di sole, che dall'unica finestra, rispondente su un orticello interno, penetrava di traverso nella stanza, ponendo in evidenza dalla parte opposta, al centro di un nudo, magro divanetto di vimini, una testa di cavallo dipinta a olio sulla federa di tela di canapa di un grosso cuscino. E là, infine, dall'altro lato del tavolo, sorridente, è vero, però con l'aria di scusarsi, di chiedere un po' di indulgenza, la vecchia rivoluzionaria che aveva veduto con i suoi occhi Anna Kuliscioff e Andrea Costa, che aveva discusso di socialismo con Filippo Turati, che aveva avuto una parte non secondaria nella famosa settimana rossa di Romagna del 14. Ridotta a parlare a voce soffocata, appena intelligibile, levando ogni tanto gli sguardi in alto, al soffitto, per indicare che la sorella o il cognato potevano scendere da un momento all'altro dal piano superiore a interromperli, a sorprenderli. Oppure, sostando in silenzio con una mano aperta e levata a mezz'aria e con l'indice dell'altra accostato alle labbra. La pendola suonò rocamente durante uno di tali silenzi e insieme veniva dall'orto un sommesso chiocciare di galline, proprio come una scolaretta, timorosa di essere colta in fallo. In quel fondo di pozzo, in quella specie di tana malfida, tutto parlava a Bruno di noia, di accidia, di lunghi anni di gretta, ingloriosa segregazione e di oblio. Ma allora, non potei fare a meno a un certo punto di chiedersi, ma allora era valsa davvero la pena essersi condotti nella vita in modo sempre così diverso da come, per esempio, si era condotto l'onorevole Bottecchiari, se la tabe comune, il tempo che fiacca e stravolge ogni cosa, aveva potuto ugualmente portare tanto avanti la sua opera corrompitrice e disgregatrice. Clelia Trotti non si era mai piegata. Aveva sempre conservato purissima la propria anima. L'onorevole Bottecchiari, al contrario, sebbene non avesse mai accettato la tessera del fascio, si era inserito pienamente nella società dei suoi anni maturi. Senza che nessuno se ne lamentasse o scandalizzasse, era arrivato a far parte del consiglio d'amministrazione della Cassa Agricola, figuriamoci. Ebbene, considerando i risultati, quale dei due aveva avuto ragione nella vita? E che cosa era venuto a fare lui, sopraggiungendo talmente tardi, se non appunto per rendersi conto che il mondo migliore, la società giusta e civile di cui Clelia Trotti rappresentava insieme la prova vivente e il relitto, non sarebbero tornati mai più? La guardava, la patetica perseguitata antifascista, la pietosa prigioniera, e non gli riusciva a distaccare gli occhi dalla riga scura, chiaramente visibile, che appena al di sotto dei bianchi capelli, raccolti in un nodo sulla nuca, le segnava torno torno l'esile collo rugoso. Quale specie di aiuto, pensava continuando a fissare quel povero collo mal lavato, poteva lui attendersi da Clelia Trotti, da Rovigatti e dalla cerchia chissà poi se davvero esistente dei loro umili amici. Per carità, sottrattosi a quel colloquio grottesco, bisognava che lui si levasse al più presto di lì, magari cominciando d'ora in poi ad ascoltare con orecchio meno disattento quello che suo padre non si stancava mai di raccomandargli. Sicuro, perché una buona volta non gli avrebbe dato retta, lui, a suo padre? A partire dal settembre dell'anno scorso, il papà non aveva trascurato occasione per esortarlo a trasferirsi in Erez, come si era abituato subito a dire, o negli Stati Uniti, o nell'America del Sud. Lui era giovane, insisteva. Gli stava davanti l'intera vita. Gli conveniva emigrare, mettere radici altrove. C'era ancora modo. Prima dell'estate prossima l'Italia non sarebbe certamente entrata in guerra e il passaporto ad un ebreo discriminato nessuno avrebbe avuto il coraggio di rifiutarlo. «Abbia pazienza, la prego», bisbigliava nel mentre Clelia Trotti. «Ma in questa casa io non sono nient'altro che un ospite. Mia sorella e mio cognato», aggiunse con gli occhi azzurri che di nuovo manifestavano, fissi in quelli di Bruno, gioia di aprirsi, certezza di non sbagliare ad aver fiducia. «Mia sorella e mio cognato, che da quando sono tornata dal confino, e cioè da parecchi anni, mi hanno preso qua con loro, non pensano che a impedirmi». E adesso rideva, scuotendo il capo divertita. «Di commettere altre sciocchezze». Storse le labbra. «Mi sorvegliano», soggiunse, con lo sguardo che d'improvviso era diventato serio, quasi severo. «Mettono il naso in tutto quello che faccio. Peggio, creda, che se fossi una bambina. Mi rendo conto, per della gente che non la pensa come noi, che anzi ha un'idea della politica completamente diversa dalla nostra. Buona gente, sa, d'altra parte, due veri cuor d'oro. Mi rendo conto che comportarsi nei miei riguardi come purtroppo si comportano possa sembrare una specie di diritto. Lo fanno per il mio bene, sostengono. E sarà. Ma intanto quale noia!» «È sua sorella la signora che viene sempre ad aprire la porta?» «Sì, è mia sorella. Ma perché?» rispose la maestra, allarmata. «Vuole forse dire...» «Oh, poverino!» esclamò e congiunse le piccole mani ossute, con l'indice e il medio della destra macchiati di nicotina. «Chissà quante volte Giovanna le avrà fatto fare la strada per niente!» «Un giorno ne diceva una, un giorno un'altra. Erano scuse, lo capivo benissimo. Però non potevo supporre che lei non fosse in qualche modo al corrente e allora...» «Oh, poverino!» ripeté Clelia Trotti. «E io che parlavo di diritto! No! Dentro certi limiti posso anche capire, ma quello che è troppo, mi sentiranno!» Rimase per qualche istante in silenzio, come se stesse meditando sulla gravità dell'arbitrio che era stato perpetrato nei suoi confronti e sulle misure che avrebbe preso per far valere le proprie ragioni. Insieme, tuttavia, si vedeva, stava pensando ad altro e doveva trattarsi di qualcosa che suo malgrado le faceva piacere. «Senta, com'è che ha fatto a trovare il mio indirizzo? Non le sarà stato facile procurarselo, immagino. Un paio di mesi fa mi è venuta l'idea di andarlo a chiedere all'avvocato Bottecchiari», fece Bruno, guardando altrove. E poiché la Trotti non interloquiva, «l'avvocato Bottecchiari», continuò, «è un nostro vecchio amico di famiglia. Contavo che sapesse indirizzarmi, invece non ha saputo... o non ha voluto dirmi niente di preciso. Mi ha consigliato di passare da Cesare Rovigatti, quel ciabattino, sa, che ha la bottega qui vicino, in piazza Santa Maria in Vado. Per fortuna lo conoscevo molto bene e Il nostro Cesarino, sì, tanto caro. Però non riesco a capire come mai. Avrebbe pure potuto anche lui parlarmi di lei. Lo vede? Per una ragione o per l'altra, non c'è nessuno che non si creda in dovere di assumere nei miei riguardi le più strambe iniziative. E invece non comprendono che con questo sistema, creandomi a poco il deserto attorno, è come se mi togliessero l'aria per respirare. Meglio la prigione, allora. C'era stanchezza, disgusto, amarezza profonda nel tono di voce con cui aveva pronunciato le ultime parole. Bruno la guardò in viso, ma i suoi occhi intensamente azzurri, fermi e asciutti sotto le grigie sopracciglia aggrottate, erano pieni di speranza, come se dubitasse di tutto e di tutti, tranne che di lui. Ad un tratto la porta si aprì, qualcuno si affacciò. Era la signora Codecà. «Chi è? Che c'è?» aveva chiesto la nota voce odiosa, prima ancora che la testa color pepe e sale si sporgesse a curiosare. Lo sguardo diffidente della signora Codecà si scontrò con quello di Bruno. «Ah», disse fredda, «non sapevo che avessi visite». «Ma è un amico, è il signor Lattes», si affrettò a spiegare Clelia Trotti, agitata. «Bruno Lattes!» «Piacere tanto», fece la signora Codecà, senza avanzare di un passo. «Finalmente l'ha trovata, eh?» aggiunse con un sorriso acido, rivolta a Bruno, ma senza guardarlo. Si trasse un poco in disparte. Dal buio del corridoio venne fuori con l'aria spaventata un bambinello di 8 o 9 anni. 3 righe orizzontali bianche gli attraversavano sul petto il grembiulino nero. «Vieni pure avanti», lo incoraggiò la signora Codecà. E poi, giratasi verso la sorella, «Non preoccuparti, il signor Lattes lo accompagno io». Quando stettero di nuovo come sempre erano stati, lei bloccando con la massiccia persona l'ingresso e Bruno a guardarla di sotto in su dal ciottolato, la Codecà riprese a parlare. «Non so se mia sorella si è ricordata di avvisarlo», disse. «Ma dopodomani al più tardi Clelia deve assentarsi veramente. Si tratta di un viaggio e credo piuttosto lungo. Quanto durerà con precisione non lo so. Forse qualche settimana, forse per qualche mese. Insomma, per il momento è inutile. Cerchi di capire che lei torni a farle visita. Faccia il favore, signor Lattes, sia bravo. Lo dico anche per il suo bene». Sottolineò le ultime parole con uno sguardo accorato, supplichevole. Infine, mentre si ritirava e chiudeva lentamente la porta in faccia a Bruno, soggiunse bisbigliando: «Siamo sorvegliati. Se ne rende conto?» Quella notte stessa, rincasando molto tardi come al solito, e senza nemmeno aver telefonato verso le 8 che non lo aspettassero a cena, la sera l'aveva trascorsa prima in un cinema e poi, seduto a fianco del biliardo, in un bar di fuori Porta Reno. Bruno venne sorpreso per istrada dalla neve. All'inizio non fu che un minuto polverio, mulinante leggero attorno ai lampioni. Ma di lì a poco, in via Madama, mentre cercava di infilare la chiave nella serratura del portone di casa, i fiocchi erano già diventati così fitti e pesanti che ne ebbe in breve il volto tutto bagnato. Continuava ad armeggiare con la chiave e intanto, siccome l'orologio del castello aveva cominciato a battere le ore, si studiava di contarle. 1, 2, 3, 4. Le 4. Era davvero molto tardi. Ma non per questo c'era da sperare che suo padre si fosse rassegnato a spegnere la luce. La luce l'avrebbe spenta soltanto dopo che lo avesse sentito passare a tentoni e in punta di piedi davanti alla porta della camera da letto e che gli avesse fatto capire, tossendo e borbottando, che era rimasto sveglio e in ansia per lui fino a quell'ora. D'altra parte, meglio così. Forse quella notte lui poteva esimersi dal ripetere la vecchia, stupida commedia del buio e dei passi in punta di piedi lungo il corridoio. Se il papà ancora non dormiva, ottimo. Avrebbe subito girato l'interruttore della luce e sarebbe entrato deciso in camera sua. Sapeva già di che cosa gli avrebbe parlato. Se non che gli bastò trovarsi nell'androne d'ingresso, in fondo al quale, attraverso la cancellata divisoria, si intravedevano le nere piante del giardino, per accorgersi di un lieve chiarore filtrante dalla porta della stanza pian terreno che gli serviva da studio. Si avvicinò. Piano piano aprì l'uscio. Suo padre era là, seduto nella poltrona a lato del tavolo. Avvolto in una coperta di lana, dormiva col capo reclinato sulla spalla. Penetrò nello studio senza far rumore, addossandosi alla parete di fianco alla porta. Talmente tardi lui non era mai rientrato, pensava. E per questo motivo, forse, a un certo punto suo padre aveva deciso di alzarsi dal letto e di scendere da basso così, in camicia da notte e pianelle. Chi lo sa? Poteva darsi che gli fosse venuto in mente di approfittare dell'occasione per discutere a fondo con lui la faccenda del suo trasferimento in Palestina o in America, a proposito della quale, tutte le volte che aveva voluto intavolarla, si era sentito rispondere con freddezza o addirittura con sgarberia. Se lui lo avesse atteso giù in studio, si era magari detto il papà, loro due avrebbero potuto parlare e perfino litigare quanto volevano. Le loro voci non avrebbero svegliato nessuno. Si mosse in punta di piedi, sogghignando, e stava già per toccare la mano sinistra del dormiente, abbandonata come morta sopra il carlino, rimasto aperto spiegato sulle ginocchia. La destra, a cui la fronte si appoggiava, gli si era disposta distinto in modo da difendere le palpebre socchiuse dalla luce della lampada da tavolo, quando una specie di fitta improvvisa di dolore interruppe il suo gesto a metà. Ritirò il braccio, fece un passo indietro, ma invece di girarsi e andarsene, stette fermo a guardare la scarna tempia del padre. Una tempia fragile fragile, più cartilagine che osso, e quei suoi capelli bianchi e leggeri come piume, così simili proprio nella loro leggerezza e bianchezza ai capelli di Clelia Trotti. Quanti anni ancora sarebbe vissuto suo padre? E Clelia Trotti? Ci sarebbero riusciti tutti e due a vedere la conclusione della tragedia che stava sconvolgendo il mondo? Sebbene finiti e prossimi alla morte, entrambi in fondo non facevano che sognare. Dal suo carcere di via Fondo Banchetto, Clelia Trotti sognava la rinascita del socialismo italiano, mercé l'immissione nelle stanche, decrepite vene del partito, del sangue dei giovani. Dal ghetto di via Madama, dove con dolorosa voluttà si era rinchiuso, l'amatissimo, insostituibile circolo dei negozianti lo aveva espulso naturalmente e adesso stava sempre in casa, consumando le ore a leggere i giornali e ad ascoltare Radio Londra. L'avvocato Lattes sognava la brillante carriera che attendeva di sicuro il figliolo in America o in Erez. Ma lui, Bruno, il figliolo, che cosa avrebbe fatto? Sarebbe restato? Sarebbe partito? Sul valore effettivo della discriminazione il papà si illudeva. Il passaporto la questura non lo avrebbe concesso. E poiché la guerra appena al principio sarebbe durata chissà quanto, poiché la tagliola ormai scattata aveva reso qualsiasi evasione impossibile, poiché l'unica strada da percorrere era evidentemente quella che portava tutti, nessuno escluso, incontro a un futuro vuoto di speranza, meglio valeva allora che uno continuasse a partecipare volonterosamente, non fosse altro che per pietà e umiltà, alle fantasticherie solitarie, ai disperati passatempi, ai poveri, miserabili deliri da ergastolani e onanisti dei propri compagni di viaggio. Sempre in punta di piedi, si avvicinò alla finestra. Dopo aver socchiuso uno dei due scuri, spinse lo sguardo attraverso i vetri appannati e le spie della persiana. La neve continuava a scendere. Fra qualche ora sarebbe stata alta, avrebbe steso su tutta la città, prigione e ghetto comune, il suo silenzio opprimente. Perfino la signora Codecà andava contentata. Aveva chiesto che casa sua non diventasse un covo di cospiratori. E da ultimo si era scoperta, aveva gettato sul tavolo tutte le sue carte di carceriera zelante, senza dubbio, ma non perfida, soltanto impaurita. Qualsiasi cosa lei dicesse o pensasse, con ogni probabilità l'ovra si era completamente dimenticata di via Fondo Banchetto 36. Da molto tempo nessun poliziotto si presentava più sull'imbrunire per verificare se l'ammonita Trotti Clelia si trovasse presso il proprio domicilio come prescritto. Però meglio non contrariarla, la signora Codecà. Meglio tenersi passivamente al ruolo di sorvegliante severa e incorruttibile che lei medesima si era assunto. Non perdere mai d'occhio la sorella subversiva, alla quale, dopo il confine, erano stati inflitti 10 anni supplementari di abitazione coatta, con l'obbligo quotidiano di rincasare al tramonto e quello settimanale di recarsi in questura per la firma da apporre nello speciale registro degli ammoniti. Precipitarsi ad ogni scampanellata, senza mai trascurare di mettere bene in mostra, in cima al grembiule nero, di docente in regolare attività di servizio, il distintivo fascista. Anche la signora Codecà aveva pur diritto al piccolo margine di illusione, di gioco, necessario a chiunque per sopravvivere. E Clelia Trotti? Le desiderava davvero, lei, le visite? Uscire di casa con aria furtiva, sbirciare di traverso le persiane del piano di sopra, svoltare subito giù per via coperta. Se c'era qualcosa che le facesse piacere, non poteva essere che questo. Bisognava attendere. Presto o tardi, sarebbe stata lei stessa a farsi viva. Una mattina di circa 2 mesi dopo, mentre stava facendo lezione in un'aula della scuola israelitica di via Vigna Tagliata, a un certo punto Bruno vide la testa della bidella spuntare cautamente dalla porta. «Permesso? Che cosa c'è? C'è di là una signora che la vuole?» Strascicando le ciabatte sul pavimento di mattoni e suscitando fra i banchi il solito brusio divertito, la bidella venne avanti verso la cattedra. «Cosa debbo dirle?» domandò preoccupata. «Di età imprecisabile, bassa, rotonda, con 2 bande unte e lustre di capelli corvini che le scendevano dalla sommità del cranio a incorniciare un assonnato viso da pecora. Si trattava della meno anziana fra le ricoverate dell'ospizio dei vecchi di via Vittoria, esumata apposta dall'ingegner Cohen quando nell'ottobre del 38 era stato necessario sistemare al secondo piano dell'asilo infantile i ragazzi espulsi dalle scuole medie statali. «Dica che aspetti la campana», rispose Bruno, così seccamente che la piccola scolaresca subito ammutolì. «Quante volte debbo ripeterlo che durante le lezioni non voglio che mi si disturbi?» Era Clelia Trotti. Non poteva essere che lei. Pur continuando a spiegare e a interrogare, la vedeva, con l'immaginazione, attendere nell'atrio lì accanto. Leggeva le grandi lapidi, piene di nomi di oblatori benemeriti, affisse nelle pareti fra le porte biondicce delle aule. contemplava a uno i busti di gesso verniciato di Vittorio Emanuele II, di Umberto I e di Vittorio Emanuele III, disposti dentro nicchie del muro attorno al bollettino della vittoria. Ogni tanto andava ad affacciarsi ad uno dei due opposti finestroni, entrambi spalancati. Finalmente la campana squillò. Riversatisi dalle aule nell'atrio, i ragazzi si buttarono a precipizio giù per lo scalone centrale. Ma uscito che fu a sua volta nell'atrio tornato deserto, nello scorgere laggiù in fondo la piccola donna in cappello e tailleur grigi, ferma di spalle sotto il proclama di Diaz, per qualche istante Bruno rimase sconcertato. Bisognò che, sentendolo avvicinarsi, lei si volgesse indietro di scatto, che gli sorridesse con quel suo sorriso buono, come tra le lacrime, che lo fissasse in viso con quei suoi occhi azzurri dai quali scaturiva la stessa espressione ironica, triste e generosa della prima volta, quando lui le aveva detto come si chiamava. Soltanto allora la riconobbe.